R, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il punto franco di Trieste è una risorsa nell'epoca della guerra dei dazi. Molti imprenditori hanno già iniziato a valutare le opportunità del regime del punto franco. Nuova viabilità di accesso per il porto di San Giorgio di Nogaro, con spazi per la sosta dei mezzi pesanti e la piazzola per l'elisoccorso. La doppia tassazione del TFR e le altre ingiustizie nei confronti dei lavoratori frontalieri. La denuncia arriva dai sindacati italiani e sloveni che si sono incontrati alla Transalpina. Il consultorio AIED di Pordenone celebra 50 anni di impegno per i diritti sessuali. Tra le priorità future, l'educazione emotiva obbligatoria nelle scuole. Un guasto agli ascensori del complesso Ater di Melara a Trieste tiene da un mese in ostaggio alcuni inquilini con difficoltà di deambulazione o in carrozzina. Gorizia, Crocevie d'Europa propone una serie di nuove scoperte della capitale europea della cultura, alcune anche in mongolfiera. Buongiorno da Francesca Terranova e Nada Cioc. Le politiche ondivaghe sui dazi di Donald Trump, oltre a creare terremoti sui mercati globali, impongono agli imprenditori anche di trovare delle strategie alternative per tutelarsi dall'incertezza. Un'opzione da esplorare e sfruttare anche quella del punto franco di Trieste. Il nome non si conosce, ma alcune aziende friulane hanno incaricato degli esperti per studiare le opportunità che il punto franco di Trieste potrebbe offrire per aggirare o smorzare i dazi annunciati da Trump. Semplificando all'estremo, l'ipotesi è questa. Poniamo che un'azienda produca tubi in Friuli. Potrebbe portarli in zona franca a Trieste, modificarli o finire di lavorarli ed esportarli senza pagare i dazi. Davide Maresca, professore di diritto della concorrenza. Il concetto di Made in Italy di tipo commerciale non viene assolutamente toccato e non viene meno. Il tema in realtà è la classificazione dei cosiddetti codici prodotto che consentono di far scattare l'applicazione dei dazi in ragione degli accordi internazionali che sono in vigore, che potrebbero appunto scattare, quindi cambiare in ragione di livelli di lavorazioni che vengono effettuate all'interno delle aree del porto. È importante sapere qual è la categoria di provenienza del prodotto e qual è la categoria invece di prodotto che è l'obiettivo di trasformazione. Entra con una categoria, esce in un'altra categoria. Questo è quello che deve avvenire. Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico. Il punto franco di Trieste non ha espresso ancora tutte le sue potenzialità, perché viene trascurata un'altra componente che è prevista dagli accordi internazionali, che è la questione fiscale, che fin qui non è stata esplorata. E secondo me ci sarà bisogno di un'interlocuzione con il governo nazionale, non so se, secondo me no, dovrà esserci anche un confronto con l'Unione Europea, con la Commissione Europea, però Trieste è anche il porto franco nella sua fase proprio istitutiva, ha anche una componente di agevolazione fiscale che in questo momento andrebbe a sommarsi con le facilitazioni doganali. Si fa sempre di necessità virtù. Nel momento in cui questo strumento si percepisce, lo si percepiva già allora, come uno strumento strategico, beh, allora vedo che ci stanno mettendo in fila grandi imprese, penso anche all'apporto di colossi come MSC nel sostenere delle istanze del territorio. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il porto di San Giorgio di Nogaro diventa raggiungibile più facilmente grazie alla nuova rete di viabilità che è stata inaugurata a mezzogiorno da Regione e Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli. Inaugurata a Porto Margaret San Giorgio di Nogaro, la nuova viabilità di accesso al porto che in questi mesi sta facendo registrare una piccola crescita nel volume di merci movimentate. Taglio del nastro per una rotatoria, un parcheggio e per le garitte del varco, con obiettivo di potenziare l'infrastruttura logistica. I lavori, dal costo complessivo di 3 milioni di euro, sono stati interamente finanziati dalla Direzione Centrale Infrastrutture della Regione. Dopo un 2024 che aveva fatto segnare un meno 20% circa di movimentazioni per lo scalo, 1.087.000 tonnellate totali, ma prima della guerra in Ucraina si viaggiava su ritmi di 1.400.000 tonnellate, gli ultimi mesi sono di nuovo in leggera crescita, rende noto Emanuele Malisan, presidente della Midolini Fratelli S.p.A. aumentato l'export di prodotti forestali, pacchi di legno, tronchi e pannelli. Sembra strano con il mercato del mobile in contrazione, eppure quando è così, continua Malisan, le grandi aziende come Fantoni, Bipan, Kronospan, invece di vendere di più sul mercato italiano che ha margini più ampi, si rivolgono all'export dove i margini sono minori ma c'è più domanda. Tornando alla viabilità inaugurata, la nuova rotatoria all'incrocio tra via Fermi e via Meucci è stata progettata per mettere in sicurezza l'accesso all'area portuale e per consentire l'inversione di marcia in modo più agevole. Il ramo di accesso al porto è stato costruito con strutture amovibili per permettere anche il transito di mezzi eccezionali e comprende l'attraversamento del raccordo ferroviario dotato di apposito impianto di segnalazione. Sistemata inoltre un'area di circa 23.000 metri quadrati antistante al piazzale Margaret, trasformata in uno spazio dedicato alla sosta dei mezzi pesanti in attesa dell'espletamento delle pratiche doganali. Infine, creata un'apposita area di atterraggio per l'elicottero del pronto soccorso. Porto Nogaro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Frontalieri italiani e sloveni bloccati dalla burocrazia sono oltre 9.000 e continuano a scontrarsi con difficoltà già superate sulla carta dalle direttive europee che però restano inapplicate nei fatti. Questa mattina in piazza della Transalpina a Gorizia si sono incontrati i sindacati italiani e sloveni appartenenti al Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Sloveno, nato 30 anni fa, per rafforzare la cooperazione fra i due paesi. Roberto Treu, presidente del Consiglio Sindacale e da 45 anni figura di spicco nella CGIL, ha rilanciato due priorità: regolamentare in modo chiaro e tutelare i lavoratori frontalieri, evitando ingiustizie come la doppia tassazione del TFR o l'esclusione dall'assegno unico per chi lavora qui ma non è residente. Altro nodo cruciale, il ripristino del trattato di Schengen, sospeso da oltre un anno e mezzo dal governo Meloni. Una misura inefficace contro il terrorismo, secondo Treu, perché chi vuole oltrepassare i confini trova comunque varchi non sorvegliati. E noi crediamo nella libera circolazione in un'Europa senza confini, come lo slogan di Gorizia, Nova Gorizia, capitale della cultura. Almeno 400 persone hanno partecipato al flash mob di protesta ieri pomeriggio a Tolmezzo in occasione dell'audizione dell'assessore regionale alla salute Riccardi, richiesta dal Consiglio Comunale sui pronto soccorso e la sanità di prossimità. L'audizione dell'assessore regionale alla salute Riccardi e del direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale Caporale inizialmente si sarebbe dovuta tenere in seduta pubblica in Consiglio Comunale a Tolmezzo, poi invece, vista la numerosa partecipazione di sindaci dell'Alto Friuli invitati a presenziare, è stata spostata nella sala assemblea della comunità di montagna della Carnia, dove si è svolta a porte chiuse oltre due ore di acceso confronto sull'esternalizzazione del pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo, mentre fuori più di 400 persone, stando alle stime delle forze dell'ordine, hanno dato vita a un flash mob spontaneo organizzato dai cittadini col supporto della locale associazione di volontariato Hauser per denunciare il progressivo depauperamento della sanità in montagna. All'iniziativa hanno preso parte anche diversi consiglieri regionali di opposizione e comitati in difesa della sanità pubblica arrivati a Tolmezzo da tutta la regione. A una ristretta delegazione di manifestanti è stato poi concesso di presenziare all'audizione. Una sterile e dannosa propaganda politica al commento di Riccardi in una nota: nessun pronto soccorso verrà chiuso nonostante le difficoltà del momento che rendono necessarie le esternalizzazioni. Unico modo per continuare a tenere aperti i servizi, spiega Riccardi, il tutto senza compromettere la qualità dell'assistenza, assicura. Rassicurazioni che però non convincono l'opposizione tolmezzina, che aveva richiesto l'audizione di Riccardi, poi condivisa dai capigruppo, e che resta sulle barricate. Nel pomeriggio riprenderà la discussione sul tema in Consiglio Comunale, fanno sapere i consiglieri di Tolmezzo Futura, invitando la cittadinanza a presenziare. Getta intanto acqua sul fuoco il sindaco Vicentini, auspicando una convergenza e assicurando che vigilerà sulla qualità e gratuità dei servizi sanitari. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Difende la salute sessuale e i diritti delle donne, non solo, è l'AIED, l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, nata a Milano nel 1953 e che oggi conta 18 consultori privati convenzionati con le aziende sanitarie in tutta Italia, due le sedi in Friuli Venezia Giulia, Udine in via Bassi 64 e Pordenone in via Del Fante, che oggi compie 50 anni di attività. Sentiamo allora il bilancio di questi anni e le iniziative in corso con Mario Puiat, pordenonese e presidente nazionale AIED dal 2011. Dobbiamo immaginarci a cos'era Pordenone 50 anni fa. Parlare di sessualità era una cosa come parlare non della luna, di Marte. 29 aprile per esattezza del 75, un gruppo di giovani laici che avevano partecipato alla difesa del divorzio durante la campagna dell'anno prima sul referendum, eccetera, hanno pensato di creare un luogo dove fosse possibile parlare con tranquillità e serenità di sessualità, di contraccezione. Quali sono le lotte quotidiane? Va bene. Oggi più che da combattere bisogna lavorare. L'unica cosa su cui dobbiamo, tra virgolette, combattere è l'acquisizione dell'educazione sessuale alle scuole. Abbiamo deciso di fare due piccole scommesse. La prima, partendo dalla considerazione che gli adolescenti praticamente non vanno più nei consultori, abbiamo deciso di fare un mese e mezzo, da metà maggio a fine giugno, di non solo di consulenze gratuite, che le facciamo sempre questo, ma anche di visite per le ragazze, diciamo adolescenti fino ai 20 anni. Questa è una scommessa. L'altra scommessa riguarda gli uomini. Noi abbiamo pensato di fare un mese di visite gratuite riservate agli utenti di sesso maschile, visite quindi uroandrologiche di prevenzione, che faremo da metà settembre a metà ottobre. Il Consiglio Comunale di Udine ha votato a maggioranza la mozione che condanna fermamente il femminicidio di Sami Hakdim dello scorso 17 aprile, esprimendo vicinanza ai figli e agli altri familiari. Insieme alla Commissione Pari Opportunità del Comune, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a riconoscere l'insufficienza delle azioni finora intraprese contro la violenza di genere, chiede loro di rafforzare prevenzione, educazione scolastica, servizi di supporto per vittime e maltrattanti, informazione, iniziative culturali, sicurezza urbana e reinserimento sociale delle donne, promuovendo una trasformazione culturale profonda e duratura. In Comina ha chiuso il dormitorio dell'emergenza freddo, in 22 restano senza un tetto. Era gestito da volontari di Caritas e Croce Rossa. I locali erano in comodato gratuito. Sentiamo. Vengono dall'Afghanistan e hanno fatto domanda d'asilo. Stanotte hanno dormito per strada e nei parchi pubblici. Il dormitorio allestito per l'emergenza freddo in via San Daniele a Pordenone è stato chiuso dopo 5 mesi di attività. Ieri erano una ventina. Hanno recuperato le loro poche cose e se ne sono andati. Andrea Baracchino, direttore Caritas. Adesso attraverso alcuni servizi, alcuni spazi diurni che sia come Caritas e come Croce Rossa ci sono sul territorio, verranno appunto monitorati. Si cercherà di continuare a garantire il pranzo. Questo anche per capire se alcuni di questi riescono nel frattempo a trovare delle soluzioni autonome. Una parte di questi sono persone che attendono di essere inseriti nei percorsi di accoglienza. Dal comune l'assessora Cucci fa sapere che l'attenzione c'è, che è stata avviata una coprogettazione con Caritas e altri soggetti per la grave marginalità. Alla Croce Rossa e alla vicina parrocchia intanto i migranti trovano un pasto e una doccia calda. Laura Benedette dello sportello sociale della Croce Rossa. Vedere tutto queste persone in giro, cioè, fa un certo che. Comunque speriamo che le autorità si facciano avanti e trovino una sistemazione per loro. Luigina Perosa, Rete Solidale. Quello che noi proponiamo da anni è una soluzione strutturale, perché una città come Pordenone, che abbia un centinaio di posti di accoglienza anche a bassa soglia, in cui viene assicurato un letto e viene assicurato un bagno, ci sembra veramente il minimo della dignità e dell'umanità. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un guasto agli ascensori non riparato da almeno un mese nel complesso Ater di Melara Trieste si sta rivelando una barriera architettonica insormontabile per coloro che hanno difficoltà di deambulazione o sono in carrozzina, non possono uscire di casa. Dal 1 aprile proprio reclusa in casa. Reclusa, sequestrata, praticamente mi sento ai domiciliari. Così la signora Adriana Pippano, 80 anni a settembre, invalida in sedia a rotelle, non esce dal suo appartamento al 5° piano nel complesso Ater di Melara da un mese. L'ascensore, che funzionava già a singhiozzo da dicembre scorso, è stato chiuso per manutenzione e se inizialmente la data di fine lavori era fissata al 21 di aprile, è stata poi posticipata al 30 e ora al 7 maggio. Al civico 13, su 14 appartamenti, 6 gli inquilini invalidi e over 70, diverse le chiamate all'Ater. Un addetto al telefono aveva promesso l'intervento. Al giorno 22 di aprile sarebbero arrivati i manutentori per fare i lavori. Arrivati? No, non arrivati, non telefonato più e siamo rimasti così. Ater, che da mesi è senza vertice e c'è una direzione ad interim, ha fatto sapere che è stato difficile identificare la data di inizio lavori per esigenze manifestate dai singoli. Qui non è venuto nessuno, non abbiamo potuto parlare con nessuno. Adriana ha dovuto persino cancellare il controllo periodico del diabete a Cattinara. Ater ora promette agli utenti disabili che devono spostarsi per esigenze indifferibili la movimentazione manuale della cabina. Va fatta richiesta anticipatamente. Adriana e il marito Franco vivono a Melara da 47 anni. Poliomielitica da quando era in fasce. È una donna forte che non si arrende. La sua libertà si sente di averla persa. Eh sì, purtroppo, cosa che non mi succedeva in tutta la mia vita, anche perché qui di solito la manutenzione funzionava, fino a pochi anni fa. Lei amava vivere in questo posto? Non lo cambierei per nessuna cosa al mondo. Ho anche la mia libertà, nonostante la carrozzina. Trieste, Anna Vitariani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Il tempo, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, Pordenone 21 gradi, Udine 22, Gorizia 23. A Sappada 13,5, Piancavallo 14,5, Tarvisio 16,5 gradi, Forni di Sopra 18, a Tolmezzo 19,5, sul Monte Lussari 10 e sullo Zoncolan 10,5, a Lignano e Grado 21. Le previsioni su pianura e costa: cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo in genere poco nuvoloso, sulla fascia orientale e sulla costa soffierà burino. Escursioni a piedi in mongolfiera, pullman, treno, bici per esplorare Gorizia, Nova Gorizia e il territorio circostante, sempre accompagnati da guide esperte anche in più lingue e anche nella lingua dei segni. Riparte la nuova programmazione di Crocevie d'Europa, il progetto turistico-culturale del comune di Gorizia con il sostegno della regione. Il nuovo cartellone propone da qui fino a gennaio ben 45 appuntamenti che saranno presentati alla stampa oggi. Ci dà qualche anticipazione Rossana Puntin, curatrice e coordinatrice del progetto, come funzionaria del comune. Uno dei temi importanti è il tema dei trasporti, perché andremo a scoprire già subito dal 4 maggio l'aeroporto di Gorizia, che è un piccolo aeroporto, un tempo da militare, oggi è civile, e all'interno c'è un bellissimo museo che racconta la storia dell'aeroporto. Da lì sono partiti anche i fratelli Russian, che sono tra i scopritori, insomma i primi che riuscirono a far volare un aereo in legno e tela. Quindi così un luogo che ha anche tante potenzialità. Poi faremo appunto dei voli veri e propri, ma degli innalzamenti in mongolfiera dal centro città. Ci sarà uno dei treni storici della regione che è stato proprio dedicato al nostro progetto, infatti si chiama Crocevie d'Europa il treno, arriverà da Treviso e farà Gorizia e Nova Gorizia. E poi abbiamo anche la scoperta delle linee del tram di Gorizia. Avevamo tre linee qui a Gorizia, una delle quali transfrontaliera, quindi si arriverà fino a St. Peter. Come si fa a partecipare? Per partecipare bisogna mandare una mail o telefonare al numero di telefono del comune. Abbiamo un WhatsApp a cui si può fare riferimento. La partecipazione è gratuita, però la prenotazione è obbligatoria, con l'unico vincolo, diciamo, del treno storico, che per 5 euro si acquista il biglietto del treno e poi tutta la giornata, tutte le visite guidate sono comunque gratuite. 12:49 lo sport. L'Udinese con il pareggio con il Bologna sembra essere uscita dalla fase critica in cui la stavano trascinando le 5 sconfitte consecutive. Sentiamo il commento di Rugnaic. Bisognava aspettarsi una partita difficile. A mio avviso, nella prima fazione di gioco abbiamo fatto bene, abbiamo avuto buone occasioni che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Anche nelle ultime settimane non abbiamo giocato così male, durante alcuni momenti appunto delle partite abbiamo avuto delle occasioni e non siamo riusciti a segnare, che è successo anche oggi. Ci è mancato quel pizzico appunto di fortuna. Il Bologna ha esercitato più pressione nella seconda frazione di gioco, ha avuto due buone occasioni in Bologna con un colpo di testa di Orsolini e anche la punizione, Noi con Martin Pagero e Sandy Lovric abbiamo avuto delle buone occasioni per quanto ci riguarda e in generale abbiamo difeso bene tutti insieme, siamo stati ben coesi sul campo. Se ci andiamo a paragonare la prima partita contro il Bologna, il nostro esordio in Serie A, abbiamo fatto molto meglio e sono soddisfatto della prestazione della mia squadra. Passiamo alla pallanuoto. Trieste, dopo la vittoria in casa contro il Brescia, è proiettata sulla gara decisiva delle semifinali per lo Scudetto, gara in programma giovedì. Nel servizio del collega di Rai Sport, Dario Di Gennaro, sentiremo le voci di Alessandro Bovo, allenatore dei bresciani, e di Maurizio Mirarchi, dei triestini. Super Trieste, la squadra di Maurizio Mirarchi ribalta il pronostico e il risultato di gara 1, sfodera una prestazione maiuscola, eccellente sotto tutti i punti di vista e supera il Brescia 10-5. Dopo un primo tempo equilibrato ma comunque chiuso in vantaggio 3-2, Trieste si lascia trascinare dalle invenzioni e dalle conclusioni di Draskovic che nei due tempi centrali demolisce la difesa lombarda tirando da ogni posizione. Il punteggio si allarga ogni fine quarto, 5-3 a metà gara, addirittura 10-5 dopo il terzo tempo. Un insolito 0-0 saluta la partita nell'ultimo quarto che certifica il controllo della situazione di Trieste e l'incapacità di Brescia di riaprire la sfida. E ora sarà gara 3 a decretare la finalista. Siamo stati un po' penalizzati, secondo me, all'uscita di Ferrero e di Irving, perché sono due che magari davanti hanno il passaggio, hanno un po' di qualità di visione del tiro. Però oggi bisogna fare i complimenti a loro, sono stati superiori, andiamo a giocare la prossima. Ma secondo me queste sono tutte gare una diversa dall'altra, l'andata è stata una gara diversa, questa è stata un'altra gara e a Brescia sarà un'altra gara ancora, quindi andiamo lì, ce la giochiamo, diamo tutto e vediamo quello che succede. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Francesca Terranova e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Samantha Gonda. A tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.